con Lydia Jenkins di Nomad Entertainment per parlare del film Charlie Says di Mary Herron in uscita in sala giovedì 22 agosto 2019. Lydia, ben trovata. Grazie, ciao Federico, buongiorno a tutti. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, Charlie Says è centrato sulla storia della Family Manson, cioè un viaggio nella mente di Charlie Manson che fu manipolatore e mandante degli omicidi che sconvolsero gli Stati Uniti nel 1969, tra cui l'assassinio di Sharon Tate ed altri 9 persone. Soprattutto si addentra nella psiche di questo criminale attraverso la psicologa Carla Faith, che è la psicologa della prigione dove le 3 giovani donne che erano entrate a far parte della sua setta erano state più vicine a Charlie e avevano compiuto manualmente tutti gli omicidi ai quali lui poi, tra l'altro, era soltanto stato il mandante e non l'esecutore. E la regia di Mary Herron, che in Italia conosciamo per almeno altri 2 suoi lavori di un certo spessore, cioè Ho sparato a Andy Warhol e American Psycho. Esattamente, che aveva soprattutto il secondo, aveva fatto molto successo in Italia. Questo film è in linea con la sua carriera, che poi lei è una giornalista, ha sempre lavorato raccontando la psiche dei personaggi, soprattutto in questo caso come un thriller, diciamo, che racconta questi omicidi. Quindi la cosa di questo film, rispetto ad altri, numerosi altri che sono stati fatti sull'episodio o sugli episodi di Manson, è che appunto si viene visto da un punto di vista delle persone, delle donne soprattutto, che sono state manipolate nella setta da Manson. Quindi è proprio, se vogliamo, è anche un inno alla femminilità in qualche modo, no? Cioè che vuole comprendere che cosa significa essere, che cosa significava e cosa significa ancora oggi, per questo è molto attuale, essere una donna contro appunto qualcuno che vuole abusare di potere, come in questo caso. Lidia, dove avete intercettato il film e come avete deciso poi per la distribuzione? Allora, io il film l'avevo visto a Venezia l'anno scorso, purtroppo quasi un anno fa, da noi purtroppo c'è difficoltà della distribuzione, quindi escono molto dopo i film, l'avevo visto appunto a Venezia. E poi a me è piaciuto moltissimo perché comunque ha uno spessore il film che altri, come ti dicevo, sull'argomento non hanno, anche grazie alle interpretazioni degli attori che sono magistrali, e quindi poi abbiamo deciso di prenderlo. Stiamo uscendo appunto prima del film di Tarantino, che comunque non è incentrato su questo episodio ed è trattato in tutt'altro modo, diciamo. Sì. Lidia, all'estero che sorti ha avuto? È uscito in America e poi è stato comprato in varie nazioni. In America è andato bene, nelle nazioni europee io lo sta uscendo più o meno in queste date in cui usciamo noi, sia in Francia che in Germania, eccetera. Niente, dimmi. Sì. In quante sale sarà? Guarda, al momento abbiamo tra i 30 e i 35 sale, speriamo di salire domani ancora, di avere qualche altra adesione da parte degli esercenti. Purtroppo in queste date molte sale sono chiuse, ancora in Italia, nonostante noi avessimo aderito a questa cosa di Movement, che appunto ci doveva garantire che le sale fossero aperte tutta l'estate, ma invece poi siamo andati a verificare e purtroppo non è così. Quindi comunque sappiamo 35 sale per il momento, che non Bene. sono molte, ma insomma per un film d'autore non sono neanche poche in Italia. Raccontiamo anche un po' quello che sta facendo la Nomad Entertainment. Stiamo distribuendo già da alcuni tempi dei film d'autore che comunque però siano dei film anche semplici, che arrivino a un pubblico largo, anche dei film di genere, come in questo caso che si tratta di un film thriller. Dopo questi due film, questo film, avremo altri due film, che si una è una commedia nera che si chiama Rebel, che era a Cannes, e l'altra è il film di Desplechin, di Arnaud Desplechin, che anche quello, casualmente se vogliamo, ma comunque nel concorso a Cannes, è un film di genere perché è un noir, un thriller. Quindi siamo orientati sul genere in questo momento, ma non soltanto, diciamo, noi scegliamo i film anche proprio con un colpo di cuore, come si dice in italiano. Allora ricordiamo l'uscita in sala del film Charlie Says di Mary Harron al cinema da giovedì 22 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento a Lidia Genchi di Nomad Entertainment che lo distribuisce. Lidia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Anche a te Federico, sempre preziosa collaborazione con te, grazie. Ciao. Ciao Federico, ciao.